9 in punto. 10 agosto, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi, come annunciato, parliamo di Qatar, parliamo di uno Stato che è diventato un protagonista, pur nelle limitate dimensioni della finanza, dell'economia, della politica. Il Qatar è una penisola, un emirato del Medio Oriente, una penisola proprio al centro del Golfo Persico e quindi al centro un po' anche delle tensioni del Medio Oriente, con l'Arabia Saudita da una parte, l'Iran, l'Iraq dall'altra, al centro dei flussi petroliferi, dove passa gran parte del petrolio destinato appunto all'Europa, un centro anche per importante perché ha dei maggiori giacimenti di gas del mondo. Ma il Qatar è anche una repubblica, come vedremo, un emirato che sta diventando protagonista a livello finanziario. Ha acquisito nei mesi scorsi la Maison Valentino in Italia, ha acquisito la Costa Smeralda, è un protagonista finanziario. Vedremo tante altre cose. In Qatar si svolge ogni anno, ormai da qualche anno, una corsa, una gara di Formula 1, un giro del Qatar ciclistico. Ci sono tanti elementi che rendono questa penisola, questo emirato, qualcosa di interessante, soprattutto per un paese come l'Italia, che ha bisogno di petrolio, di gas naturale, ha bisogno di flussi finanziari. Vediamo adesso, si sta parlando di dismissioni, di privatizzazioni, e abbiamo bisogno di qualcuno che compri, di qualcuno che abbia i soldi per comprare, magari anche se si riesce, rispettando poi anche la destinazione di questi beni. Come allora si sviluppa questa realtà del Qatar? Cosa può fare l'Italia? Che cosa si può attendere? Questo sarà il tema del programma di oggi. Vi ricordo il numero verde 800 24 00 24 per le vostre chiamate e il 349 238 6666 per i messaggi SMS. Saluto Alberto Cavicchiolo, che è qua con me in studio, direttore di Art Valley e della Fondazione del Forum Varignano, dal grande gesuita Varignano, che fu tra i primi italiani a scoprire l'Oriente, soprattutto il Giappone, e la Fondazione per lo Scambio di Imprese Italiane con l'Oriente. Buongiorno Cavicchiolo. Buongiorno a ciascuno di voi. E saluto Andrea Ferrari, ambasciatore d'Italia in Qatar, che vive direttamente, giorno per giorno, queste problematiche. Ambasciatore Ferrari, buongiorno. Buongiorno a voi. E comincerei proprio da lei, perché ci dia un quadro un po' di questo emirato che si sta appunto sviluppando sotto molti aspetti, non solo economico e finanziari, ma anche culturali. Come si vive in Qatar, ambasciatore Ferrari? Ma guardi, io, ecco, molto ha già detto lei, solo una piccolissima rettifica: non c'è un Gran Premio di Formula 1 in Qatar, ma si svolge la gara di MotoGP. È vero, è vero. È certamente un paese che ha assurto un po' all'attenzione del mondo, soprattutto in questi ultimi anni, per le sue caratteristiche economico-finanziarie. È il terzo produttore al mondo di gas, il primo esportatore al mondo di gas naturale liquido, produce anche petrolio, anche se la maggiore fonte da un paio d'anni a questa parte è, appunto, come dicevo, il gas. Di petrolio se ne fanno all'incirca 1 milione di barili al giorno. L'oil and gas resta la principale fonte di ricchezza del paese, perché contribuisce per circa il 60%, ecco, al prodotto interno lordo, di cui il 32% ormai da un paio d'anni, come dicevo, appunto, è costituito da gas. Un paese piccolo, ma molto dinamico e con una visione anche strategica abbastanza chiara. Le dimensioni sono territoriali paragonabili all'incirca alla nostra regione dell'Abruzzo, perché sono poco più di 11.000 km quadrati, con 1,5 milioni, 1,6 milioni di abitanti, di cui però soltanto una piccola percentuale di cosiddetti catarini, insomma di popolazione indigena, circa 300.000. Ha iniziato già dal 95, anno in cui l'attuale Miro è assurdo al potere, a sviluppare anche una politica di graduale apertura e basata sulla formazione, sull'educazione. È stata creata una Education City, un'area ampia della città dove ci sono 6 branch delle principali 10 università americane. È stato creato un parco scientifico e tecnologico, dimostrando quindi una volontà di voler puntare con decisione anche allo sviluppo del paese. Ecco, la presenza italiana in Qatar come si sta sviluppando? Ecco, per quanto riguarda la nostra presenza, siamo messi bene. Ci vogliono bene ci considerano, ci rispettano, la nostra collettività è cresciuta negli ultimi 2-3 anni, siamo intorno alle tra le 700 e le 800 unità, considerando che non tutti i nostri connazionali si registrano all'AIE. Sul piano economico, anche commerciale, la nostra è una posizione ancora di tutto rilievo. Da 3 anni a questa parte l'interscambio è cresciuto a tassi considerevoli, anche se siamo è un interscambio che si attesta a favore del Qatar. Questo perché dal novembre del 2009 è entrato in funzione il rigassificatore nell'Adriatico, che convoglia, diciamo, attrae il gas che arriva liquido dal Qatar, viene poi rigassificato e riportato in Italia, e quindi le importazioni dal paese sono aumentate in maniera considerevole. Siamo intorno, gli ultimi dati del 2005 parlano di molto il 2 miliardi e mezzo di interscambio, chiaramente a favore del Qatar, come dicevo prima, ma con delle nostre esportazioni che hanno certamente subito una flessione per la crisi internazionale in prevalenza, ma che comunque presentano delle buone prospettive di ripresa per l'immediato futuro. I settori sono quello dell'oil and gas, sono il settore aeronautico, il settore della desalinizzazione dell'acqua, anche in quello medicale ultimamente, e della gestione e supervisione dei manti autostradali che verranno realizzati da qui al 2020. Insomma, l'ANAS ha di recente iniziato un negoziato importante che ha portato ad una conclusione di un'intesa che si sta perfezionando e che speriamo porti anche ad altri accordi di questo tipo. Anche perché il Qatar ha un obiettivo di cui parleremo, che sono i campionati mondiali di calcio del 2022. Ecco, vorrei farle un'ultima domanda, ambasciatore, poi la lasciamo ai suoi impegni. Dal punto di vista geopolitico, il Qatar può essere considerato un elemento di stabilità in una regione che purtroppo è grandemente instabile, con grandi conflitti, grandi tensioni? Certamente è lontano dalla Siria, ma fa parte comunque di un Medio Oriente che è una delle aree calde ormai da troppo tempo. Guardi, io ritengo che il Qatar sia un paese che svolge una politica estera che si è dettata principalmente dal pragmatismo. Basta anche guardare a quello che è lo sviluppo interno del paese stesso per rendersi conto che derive estremiste o fondamentaliste sono molto difficili. È evidente che però risente anche nella attuazione di queste sue relazioni internazionali di quello che, come lei giustamente diceva, è il clima e non soltanto, come dire, sul piano della temperatura che si registra nell'ambito della regione. Accennava prima appunto al fatto che è collocato sul piano geografico, insomma, tra l'Arabia Saudita da un lato e dall'altra parte del Golfo dell'Iran, con l'Iran. Il Medio Oriente è sempre stata un'area difficile, e con lo scoppio della prima era araba anche, come dire, accentuato questo aspetto un po' di preoccupazione. Ad oggi l'atteggiamento svolto dal paese, dal piccolo emirato, insomma, è stato sempre un atteggiamento moderato ed impostato anche ad un'azione condivisa anche con paesi occidentali. Grazie, un'ultimissima domanda, arriva un sms adesso, mi chiedono com'è la condizione delle donne in Qatar rispetto a quanto si sa, si dice sulla condizione delle donne nei paesi islamici. Ma guardi, bisogna sempre, come dire, considerare che il paese è un paese musulmano, insomma, ed è appunto, come dire, collocato nell'area in cui è. Tuttavia le donne guidano, le donne lavorano, le donne studiano, e quindi rispetto forse ad altre realtà è qualche passo più avanti. Grazie mille all'ambasciatore Andrea Ferrari, l'ambasciatore d'Italia in Qatar, ci ha illustrato appunto questa situazione del Qatar, questa repubblica che è forse una realtà sicuramente singolare all'interno di un sistema islamico. Tra l'altro, a proposito delle situazioni delle donne, avremo poi nella seconda parte anche una nostra collega Giorgia Scaturro che lavora periodicamente per Al Jazeera. Ecco, Al Jazeera è un'altra realtà del Qatar, una televisione che è diventata la maggioranza maggiore televisione araba, un po' la CNN araba, una televisione molto, molto libera, molto aperta, che, in cui sicuramente non si è svolto anche un dibattito, si svolge anche un dibattito molto, molto aperto. Ma sul fronte dei rapporti commerciali tra l'Italia e il Qatar, io sentirei Massimo D'Aiuto, amministratore delegato di Simest, la società italiana per le imprese all'estero, e chiederei appunto a Massimo D'Aiuto com'è la situazione delle imprese italiane, che cosa sta facendo l'Italia verso il Qatar. Buongiorno a tutti. Il Qatar rappresenta uno dei principali mercati di sbocco per le nostre merci nel Medio Oriente. Questo grazie anche a una politica moderata, oculata, oltre che per le grandi risorse energetiche di cui dispone. Come noto, il gas naturale è una risorsa enorme per questo paese, e anche il petrolio. Il Qatar è sicuramente una terra ricca di opportunità e in costante evoluzione, grazie sia alle lungimiranti vedute dello sceicco Al Thani, ma anche al supporto della sceicca Mozza, che ha molto apprezzato tutta la parte anche di moda italiana. Il tessuto imprenditoriale italiano condivide quindi molti aspetti con quello qatarino: imprese a conduzione familiare, un approccio diretto, creativo, e un'ammirazione per entrambi i paesi per lo stile e la qualità, che sono poi le nostre doti principali. Ecco, quali sono i settori che sono maggiormente interessati da parte italiana verso questo sbocco verso il Qatar? Sono diversi, sicuramente ha influito anche la recente aggiudicazione del Qatar per i mondiali di calcio del 2022. Ma qui ci sono grosse possibilità sicuramente per le infrastrutture, ma anche nel settore della meccanica, dei mezzi di trasporto, anche prodotti siderurgici, che sono poi prodromici per l'attività di sviluppo di un paese, apparecchiature elettriche, e poi settori anche tipici del Made in Italy, come mobili, prodotti in plastica, di design. Ecco, gli investimenti delle imprese italiane in Qatar oggi sono invece soprattutto concentrati nel settore idrocarburi e delle grandi infrastrutture, però stiamo lavorando anche come Simest per ampliare e offrire nuove opportunità, soprattutto a una maggiore presenza delle nostre piccole e medie imprese. Ecco, che strumenti può offrire in particolare Simest per sostenere questa internazionalizzazione verso il Qatar delle imprese italiane? Vede, Simest può supportare le imprese un po' a tutti i livelli, innanzitutto sulla parte commerciale, attraverso un'attività di supporto con tutta quelle che sono l'analisi delle opportunità, quindi gli studi di fattibilità, ma anche studi che riguardano lo sviluppo nel paese e anche della logistica, attraverso finanziamenti agevolati e non ultimo anche per il supporto all'esportazione di beni strumentali. Noi però, sia per questa attività che per quella che speriamo di sviluppare sempre di più negli investimenti nel paese, perché no anche dei qatarini in Italia, svolgiamo anche un'attività di business scouting, cioè proprio di individuazione di opportunità rilevanti sia per commesse che per investimenti. Ecco, in questa prospettiva c'è stata una missione recentemente, nella primavera scorsa, a Doha, organizzata da ANCE, da Simest, ha dato dei risultati? È stata molto positiva questa missione. Innanzitutto è stata la prima missione su larga scala, con una presenza anche politica e governativa importante, perché era guidata dal Vice Ministro per le Infrastrutture, dottor Ciaccia, e vi hanno partecipato oltre 70 aziende italiane, che hanno così potuto conoscere in dettaglio i piani di sviluppo che sta portando avanti il Paese, sia in vista dei mondiali di calcio del 2022, ma anche perché il Paese è fortemente proiettato a diventare un focus rilevante per tutta l'area, anche per il turismo. Ecco, c'è stato anche un accordo con Concordia Capital. Sì, noi abbiamo chiuso un'ottima collaborazione con Concordia Capital, che è una società finanziaria, partecipazione privata, però diciamo molto vicina allo sceicco, con la quale ci stiamo già lavorando. Abbiamo iniziato già lì a Doha questo accordo, che sta puntando a promuovere lo sviluppo di diverse relazioni economiche con aziende italiane e qatarine, naturalmente. Questo abbiamo già in pipeline diversi progetti, dalla meccanica all'assistenza al volo ai beni di lusso, impianti sportivi anche questi, l'armamento ferroviario e anche energie rinnovabili. Quindi una presenza molto diversificata sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista manifatturiero, produttivo. La prospettiva quindi complessivamente positiva, ingegnere D'Aiuto? È molto positiva e penso che la posizione del Qatar nell'ambito dei rapporti tra i paesi del Golfo diventerà sempre più rilevante, perché c'è una grande apertura agli operatori italiani, non solo quelli di grosse dimensioni che sono già presenti, come dicevo prima, ma anche a questo tessuto di imprese nostre di cui il Qatar, se vuole crescere come sta facendo, sicuramente ha bisogno di questo know-how, di questa immissione e condivisione di progetti comuni. Grazie mille di queste prospettive positive, grazie all'ingegner Massimo D'Aiuto, amministratore delegato di Simest. Grazie a lei, buongiorno. Ecco, proprio su queste prospettive io vorrei chiedere a Franco Alzetta, buongiorno dottor Alzetta. Direttore generale di Danieli S.p.A. di Butro, è uno dei leader mondiali nel campo della produzione di impianti siderurgici ed è presente in Qatar. Che significato ha e com'è lavorare per il Qatar e in Qatar? Ingegnere Alzetta. Diciamo che noi nel settore siderurgico storicamente non siamo stati purtroppo molto presenti in Qatar nel passato, perché era un territorio tedesco, diciamo così. Siamo riusciti però nel 2005 per la prima volta a rompere il ghiaccio e a giudicarci un progetto, una fornitura chiave in mano di un'acciaieria nell'ambito del loro stabilimento statale esistente Casco, che poi abbiamo realizzato appunto su base chiave in mano, completato e avviato verso la fine del 2007. E da quel momento diciamo che siamo presenti, conosciuti nel paese. Diciamo, dopo quell'investimento nel settore siderurgico non ci sono stati grossi ulteriori investimenti, ci sono stati degli investimenti minori realizzati, ahimè non da noi, ma niente di molto grosso significativo. Collaboriamo sempre con gli enti catarini, in particolare con il loro fondo di investimento sovrano, in quanto ci siamo aggiudicati in Egitto il contratto per la fornitura di altri stabilimenti siderurgici chiave in mano, dove il fondo sovrano catarino investe in società con un imprenditore locale. Ed è più che altro in questo campo che noi vediamo soprattutto un futuro, in quanto nel paese evidentemente per strategia il Qatar non intende, da quanto ci risulta, espandere molto la produzione siderurgica, preferisce usare l'energia per altri scopi, per venderla, e invece sta portando avanti una strategia di investimenti nella MENA region. Il prossimo dovrebbe essere in Algeria, dove finanziano grossi progetti e lì siamo in gara. Comunque l'esperienza nostra in Qatar, se dobbiamo misurarla, compararla con altre esperienze nel mondo arabo, diciamo che è un ambiente sicuramente favorevole in cui si può lavorare, forse paragonabile solo agli Emirati, Abu Dhabi, Dubai, in particolare, quindi tutto sommato un'esperienza positiva. Non è facile nel nostro settore di industria pesante essere sempre in pole position, perché comunque c'è una certa tendenza, convinzione che il made in Germany è meglio. Comunque insomma, noi facciamo del nostro meglio, speriamo e riteniamo di avere altre opportunità e soddisfazioni nel medio futuro. Ma è interessante anche questa prospettiva appunto della, un po' della triangolazione, cioè del finanziamento del Qatar in altri paesi con imprese italiane, quindi mantenere questi rapporti costruttivi è certamente qualcosa che può avere degli sbocchi positivi, se pensiamo un po' che tutta l'area è un po' l'area più ricca del mondo come risorse naturali, ma più ricca del mondo anche come risorse finanziarie. Allora, ingegnere Arzetta, direttore generale della Ranieri di Butrio, in prospettiva che come vede la possibilità proprio per le imprese italiane, le imprese impiantistiche, in cui lei è appunto rappresentante tra le maggiori imprese impiantistiche, di sfruttare appunto l'internazionalizzazione al di là, direi, del Qatar? Ma, come dicevo, appunto, le opportunità ci sono, il paese è molto ricco, ha grosse disponibilità, ha una strategia di investimenti, ritengo, molto intelligente, non solo, come sappiamo e vediamo, in Europa, in cui vengono ad accaparrarsi parte di azionari e di aziende di primaria importanza europea, però puntano molto a investimenti anche in aree da stabilizzare, e in cui io penso noi possiamo ricoprire un ruolo molto importante, in quanto comunque c'è feeling, nel senso siamo conosciuti, dobbiamo migliorare, continuare, però abbiamo insomma esperienze, aziende che sono presenti con successo nel paese, ben note, Decker, Cimolai, eccetera, per non parlare di altre, e quindi ritengo che sicuramente rispetto ad altri mercati siamo in una posizione, se non proprio favorevole, ma sicuramente siamo in buona posizione. Insomma, poi sta a noi performare e quindi guadagnarci la fiducia per continuare a collaborare. Buongiorno, bentornati a 9 in punto. Stiamo parlando del Qatar, una realtà che può sembrare piccola, ma è una delle grandi potenzialità che può avere l'industria, l'economia, la finanza, ma anche il settore pubblico italiano, per cercare di uscire, per cercare da una parte di avere quella ripresa economica che tutti ci aspettiamo, e dall'altra di avere anche la possibilità di avere nuove risorse finanziarie, appunto, per cercare di affrontare, come si dice, come si vuole, il problema del debito pubblico in Italia, e le risorse qualcuno deve pure darcele in parte, appunto, queste risorse possono anche venire dall'estero, se pensiamo alle dimissioni del patrimonio pubblico. Un paese come il Qatar ha già fatto grossi investimenti in Italia, la Costa Smeralda, che prima era dell'Aga Khan, adesso è controllata dal Qatar, Valentino, un'operazione da 700 milioni che è stata acquisita nelle scorse settimane, un grande albergo come il Gallia a Milano, uno degli alberghi più prestigiosi di Milano, è adesso di proprietà del Qatar, ma anche all'estero i grandi magazzini Harrods a Londra sono di proprietà del Qatar, e una squadra di calcio come il Paris Saint-Germain è appunto anch'essa del Qatar, Paris Saint-Germain, che è entrato nell'attualità, nelle cronache, nelle scorse settimane, come ben sanno, come ricordavo, i tifosi milanisti, per aver acquistato Ibrahimovic e Thiago Silva, grazie appunto alla capacità di spesa. Ma il Qatar ha anche una sponsorizzazione, per esempio la Qatar Foundation sponsorizza il Barcellona, una fondazione culturale, una fondazione non finanziaria che vuol farsi avanti, che vuol farsi presenti. Quindi tanti aspetti, diciamo, che illustrano questa realtà che può essere una grande opportunità. Abbiamo la telefonata Maria Pia da Monza, buongiorno. Buongiorno a lei, volevo dire due cose, la mia piccola testimonianza. Io vado in Qatar da circa 20 anni, una piccolissima azienda che esporta mobili. Il nostro ambasciatore, quando ha elencato, diciamo, le categorie merceologiche, ha dimenticato l'arredamento. Noi in Brianza esportiamo veramente tantissimo arredamento di alta qualità. I qatarini amano ancora questi mobili molto lussuosi, intagliati, quindi è sicuramente un settore dove possiamo trovare un ottimo sbocco ancora. E la seconda, che come donna, lei sa che in Medio Oriente non è facilissimo, e come donna volevo così ricordare Sheikha Mosa, che è la moglie dell'emiro, la quale è sicuramente una delle promotrici, direi, di questo sviluppo culturale e sociale del Qatar. E così volevo sottolinearlo, perché non è facile, adesso è molto più semplice, ma da 20 anni a questa parte anche lì le cose sono cambiate. Io vado da quando avevo 32 anni, adesso ne ho 52, ho notato dei miglioramenti e delle aperture notevoli. E questa donna, che appunto oltre ad essere una bellissima donna, ha saputo così imporsi e ritagliarsi uno spazio non indifferente, ed è sicuramente una delle donne più attive in Medio Oriente, che promuove tutte queste iniziative, ed anche Qatar Foundation. In Qatar Foundation Sheikh Hamoud ha avuto decisamente un ruolo importante, niente, solo questo. Ecco, la ringrazio, ma mi sembra una testimonianza molto importante, sia sul ruolo delle donne, sia sul ruolo della moglie dell'emiro. E un ascoltatore mi invita a ricordare che il Qatar è un emirato, non è una repubblica. Io forse... Allora, guardi, gli emirati sono 7 e sono... il Qatar è uno stato, gli emirati sono 7 e sono un altro stato. Però ecco, diciamo che poi quando si parla di Medio Oriente passa un po' tutto come sotto Emirati, ma il Qatar è assolutamente uno stato a sé, non è un emirato. Grazie mille a lei, della sua testimonianza, e volevo approfondire questo tema che lei ha lanciato, il tema appunto della cultura, anche del ruolo delle donne, ma anche del ruolo della moglie dell'emiro, con Alberto Cavicchiolo, direttore di Arvalley e del Forum Valignano, la fondazione per lo scambio tra imprese italiane e l'Oriente. Allora, anche dal punto di vista culturale, il Qatar può essere un elemento che muove il dialogo, che muove appunto le relazioni e quindi anche gli interessi dell'Italia verso questa regione. Alberto Cavicchiolo. Io penso che, come ha notato l'ascoltatrice, la novità è proprio questa: apertura verso la cultura, verso le donne. E a questo punto rileggerei quello che diceva prima Frasi, dottor Fabi, non come un errore, ma proprio come un'interpretazione. È un emirato, ma agisce come una repubblica liberale, cioè è veramente una delle nazioni più libere che noi abbiamo incontrato, andando in Medio Oriente, andando nell'area del Middle East e Nord Africa. E la novità di questo paese, riconosciuta anche dagli intellettuali europei e dagli intellettuali egiziani, è questa: cioè sta nascendo qualcosa di rilevantissimo nella versante intellettuale, culturale, dello scambio. Io ricordo per esempio l'iniziativa voluta dalla Sheikha Doha, che sono i Doha Debates, dove vengono invitati personaggi studiosi, premi Nobel di tutto il mondo. Questo fa seguito alla nascita di Al Jazeera e il ruolo predominante della Qatar Foundation negli equilibri del paese, perché è credo l'unico Stato che dice esplicitamente nel suo programma: noi vogliamo passare da un'economia basata sull'energia a un'economia basata sull'intelligenza. Questo credo che sia inaudito, è una lezione anche per l'Europa. Ecco, il Qatar peraltro, proprio nei giorni scorsi, l'Osservatore Romano riportava un articolo in cui notava come il Qatar sia uno dei pochi paesi del Medio Oriente in cui c'è ufficialmente la libertà di culto. Sappiamo come i paesi islamici siano molto integralisti sotto questo profilo, e addirittura l'emiro del Qatar ha donato un terreno per costruire un centro di culto, un centro per il dialogo interreligioso, in cui c'è anche una chiesa cattolica, c'è anche una parrocchia cattolica, e quindi è un paese da questo punto di vista che cerca di essere aperto. Ovviamente anche in Qatar, come ricordava anche l'ambasciatore, è un paese islamico, un paese che ha la sua natura, le sue caratteristiche, però è un paese che, come volontà almeno di chi lo guida, ha sicuramente la possibilità di dimostrare una certa apertura, una certa capacità di dialogo. Un ascoltatore con un SMS mi chiede una rettifica: il Qatar non ha comprato la Costa Smeralda, ma la Costa Smeralda Holding, ovviamente. È chiaro che non ha comprato la regione, ma ha comprato chi possiede gran parte dei terreni della regione, come la Costa Smeralda Holding. Non c'è problema a fare questa precisazione. Allora, Cavicchiolo, ma ancora su questo fronte, anche i rapporti, diciamo, culturali, c'è possibilità anche per i laureati italiani, per chi vuole appunto entrare in quest'ambito di dialogo, di colloquio, ma anche di lavoro culturale con le regioni islamiche, e il Qatar può essere una base d'appoggio importante? Diciamo che finora le aziende italiane che fanno servizi intellettuali conoscevano soprattutto Dubai nell'ultimo decennio, che è sede di molte società che non vendono, di cui la vendita non è di prodotti fisici ma di prodotti intellettuali. Il Qatar potrebbe diventare un nuovo accesso, anche se appunto se le università italiane, alcune quelle più direi smart, intendono la partita, può sicuramente diventare un'area importante. Il livello del caldo non è così proibitivo, i 50 gradi che toccano la regione un paio di mesi all'anno non sono secondo me sufficienti a motivare un rallentamento di questa iniziativa. Un accenno che io farei, per esempio, un esempio che io farei per gli italiani è che Qatar Airways può diventare un ottimo riferimento per gli italiani che vogliono lavorare lì. Adesso noi abbiamo avuto la notizia che la compagnia aerea è stata ritenuta la più importante, è stata premiata come la migliore compagnia aerea qualitativamente. Gli sbocchi che può avere Qatar Airways sono eloquenti dal fatto che siamo passati da 13 voli settimanali a Milano a 35 voli settimanali da Milano Malpensa. Dunque questo ci dice che il Qatar è un invito per coloro che hanno iniziativa dall'Italia. La novità, come diceva Massimo D'Aiuto, è che dopo le grandi imprese che fanno infrastrutture tipo Impregilo, Astaldi e Danieli, ci sia anche il passaggio di una parte delle medie aziende che invece avevano da fare tantissimo. Ecco, un po' il rapporto italiano è quello che le medie aziende forse non hanno spesso la possibilità, la capacità, i mezzi per entrare su questi mercati dove anche la forza d'urto, la forza d'impatto deve essere rilevante. Abbiamo un ascoltatore, Margherita da Milano, buongiorno. Buona giornata a voi. Allora io rispondo a quello che è stato il quesito di base, diciamo, che cosa possiamo fare noi italiani, noi Italia, noi paese, per controbilanciare questa politica di questi paesi medio orientali molto ricchi, eccetera. La mia impressione, ho 75 anni, quindi ne ho già viste tante, è che proprio non possiamo fare niente. Oggi come oggi non possiamo fare niente. I soldi ce li hanno loro, il petrolio ce l'hanno loro, ci serviranno di noi fino a quando li serviremo, fino a quando gli saremo utili, gli torneremo utili. È molto pessimistica la mia impressione, però devo dire, mi ricordo molto bene di tutte le polemiche datate di decenni fa sul fatto che le nostre forniture di gas, per esempio di metano, dipendessero in massima parte dai paesi arabi. Niente faceva concludere che fosse un'operazione economicamente utile, e poi l'abbiamo fatta per ragioni ideologiche, per ragioni le stesse ideologie economiche, perché avevamo bisogno di gas e siamo andati a prenderlo dove c'era, abbiamo bisogno di petrolio, siamo andati a prenderlo e al tempo stesso abbiamo affossato completamente il nucleare, che peraltro era partito con studi eccetera eccetera, sempre per lo stesso tipo di ideologia. Voglio concludere dicendo che ho fatto a suo tempo anche degli studi approfonditi sulla storia di questi paesi, la loro politica è una sola, la conosciamo tutti. E cosa dobbiamo fare noi italiani? Siamo consegnati all'invasione da parte un'immigrazione che ci viene buttata addosso e che per la quale nessuno ci aiuta in Europa, tra parentesi. Non abbiamo materie prime, non abbiamo niente a cui appoggiarci, possiamo solo sperare nel buon Dio che continueremo ad essere utili loro nel tempo, perché io sinceramente non vedo altro. Le pago sempre più care. Grazie mille. No, adesso la devo fermare. Potremmo dire tante cose, che possiamo capire anche il suo pessimismo ovviamente razionale, però ecco, di fronte a questo pessimismo bisogna anche pensare che qualcosa noi possiamo fare. Il futuro è quello che noi ci costruiamo, e rendersi conto di quali sono queste realtà ci rende in grado di affrontarle meglio, di affrontarle costruttivamente, renderci conto delle nostre debolezze, perché noi siamo deboli, lo sappiamo, siamo dipendenti per l'energia, ne parleremo lunedì peraltro. Proprio l'energia, dobbiamo avere delle politiche attive, delle politiche che sfruttino le risorse, che sappiano creare fonti alternative, però dobbiamo, secondo me, non essere pessimisti, ma essere costruttivi, non dico essere ottimisti, essere costruttivi, guardare costruttivamente a questa realtà. Ecco, in certo senso anche superando alcuni che sono pregiudizi fondati un po' su realtà, ovviamente anche i pregiudizi sono fondati sulla realtà, però bisogna avere anche la disponibilità a cambiare un po' i nostri giudizi. Forse conoscendo il Qatar, lo chiedo a Alberto Cavicchiolo, andandolo a vedere, la realtà è molto diversa da quanto può apparire, da quanto anche forse i giornali, i mezzi di comunicazione lasciano intravedere. Sicuramente i pregiudizi anti-arabi, anti-islamici, bisogna che noi li superiamo, perché Questo l'intervento della scoltatrice Margherita mi sembrava improntato a questo. Noi non siamo come tali filo niente, però non possiamo ignorare che in Qatar sta avvenendo qualche cosa che è veramente inaudito. È un mix che non si era mai verificato prima, e questa è stata la nostra decisione di creare con il Forum Valignano delle missioni costanti in Qatar, perché avevamo avuto notizie da intellettuali arabi come Mustafa Satouan. Mustafa Satouan, che ha scritto questo straordinario libro Perché il mondo arabo non è libero, ci ha detto appunto: guardate che però il Qatar è un'altra cosa. Rieccoci con 9 in punto. Avevamo in linea Giulio da Varese, prego. Eccomi qua, io la sento bene, mi scusi. Si dica, prego. In strada purtroppo, e magari la trasmissione si sente male. Sulla possibilità di poter andare a lavorare in Qatar, io sono un pilota di linea e sto meditando con la famiglia seriamente di poter andare a lavorare per Qatar Airways, che tra l'altro mi sta facendo record ultimamente, e la cosa mi fa ben molto piacere. Non l'escludo che sarà una delle mie prossime decisioni di vita, quindi questa trasmissione mi ha aiutato molto a capire anche che a che clima c'è in Qatar. Grazie mille di questa testimonianza. Qatar Airways, Cavicchiolo, può essere una buona scelta. Assolutamente, il country manager italiana doveva essere con noi oggi, ma credo che lo sarà più avanti. Ringraziamo comunque Nick Bragg, che ci ha aiutato nella costruzione di questa trasmissione. Noi diciamo che sicuramente, se avremo sorprese per l'aspetto lavorativo in Qatar, saranno assolutamente positive. Un ascoltatore ci chiede che lingua si parla in Qatar. Allora, la lingua ufficiale, addirittura nei documenti, nei tender, nei bandi, è sempre l'inglese. Ovviamente l'arabo io non lo prescrivo, ma se possiamo lo suggerisco, perché veramente farebbe la differenza che alcuni di noi imparassero l'arabo, per poter anche entrare con lo spirito che era di Valignano nella logica dei qatarini, che è una logica particolare, che non è una logica assimilabile agli altri paesi islamici. E allora proseguiamo con Alberto Cavicchiolo in questa spiegazione un po' del Qatar, anche dal punto di vista, abbiamo visto delle testimonianze sia dal punto di vista dei grandi impianti, sia una testimonianza di un'ascoltatrice che ci parlava appunto dell'attenzione che hanno anche verso i prodotti italiani, verso i mobili italiani, verso lo stile italiano. Ecco, può essere anche questo il Qatar, una piattaforma non solo per il paese, che ovviamente, essendo di poco più di 1,5 milioni di abitanti, ha un mercato che è il mercato che può avere 1,5 milioni di abitanti, ma verso tutta l'area, diciamo, medio orientale, l'Arabia Saudita, ma anche gli altri paesi che speriamo possano avere una transizione un po' più di apertura. Il grande caso dell'Iran ovviamente è ancora aperto, ma dovrebbe anche questo risolversi. E appunto un mercato come quello iraniano è un mercato enorme. Allora, può essere una piattaforma commerciale per tutta l'area? Assolutamente, io direi che la missione costruita da Simest Confindustria è stato il primo esempio. Forse andrebbero create delle ulteriori iniziative, perché non si può improvvisare delle relazioni che sono anche in parte delicate, che devono tener conto delle regole che loro ritengono imprescindibili. Io vorrei parlare comunque dell'opportunità che ci dà la cultura. A Doha c'è la sede di quello che fosse uno dei più grandi, dei più bei musei islamici al mondo, e dove noi possiamo intersecare anche la nostra esperienza. Ricordo comunque che noi a Milano, alla Biblioteca Ambrosiana, presieduta dal dottor Richebuono e gestita dal Monsignor Buzzi, noi abbiamo una delle più grandi giacimenti di manoscritti e di cultura islamica antica, che fu raccolta addirittura da Federico Borromeo. Questo potrebbe essere, per esempio, un momento di interscambio con il Ministero della Cultura in Qatar. Ecco, abbiamo allora Enzo Zugno. Buongiorno, dottor Zugno. Mi sente? Sì, adesso la sento molto bene. Sì. Amministratore delegato di Prospettiva, un'azienda di Moriano Veneto, operante nel campo degli investimenti immobiliari, anche degli investimenti immobiliari nell'area medio orientale in Qatar. Cosa vuol dire? Qual è la sua esperienza appunto di questi rapporti con questo Emirato? Allora, intanto buongiorno a tutti, mi sembra ci sia anche il professor Rispo che ho conosciuto in una delle visite che ho fatto e vorrei salutarlo se è presente. Riportiamo i saluti perché avrebbe dovuto esserci e stiamo tentando di collegarci con lui, ma c'è qualche problema tecnico telecomunicativo che ci finora ha impedito. Abbiamo appunto tra i nostri ospiti Lucio Rispo, presidente, membro della Qatar Foundation e direttore del Parco Tecnologico del Qatar, ma esatto. Con Qatar c'è qualche problema adesso. Comunque, dottor Zugno, prego. Prendo spunto proprio dall'esperienza che dal dialogo che ho avuto col professor Rispo e in risposta anche alla signora Margherita di prima che criticava un attimo il paese, il professor Rispo è la dimostrazione che l'Italia e i cervelli italiani possono imporre la loro capacità non alzando scudi ma con la capacità di riuscire a incidere profondamente nel paese. E per quanto riguarda la prospettiva e l'esperienza che abbiamo fatto, in particolare col professor Cavicchiolo, Prospettiva è una società, come ha già detto lei, che si occupa di immobiliare e sicuramente è andata in Qatar per sviluppare, per portare aziende amiche e per portare l'esperienza appunto del projecting e della realizzazione nel real estate. E nella nostra missione che abbiamo fatto negli ultimi due anni stiamo portando e abbiamo già aperto dei canali per quanto riguarda la società Fraccaro, che è specializzata in impianti per la trasmissione radio, televisiva e la sicurezza, e sicuramente avrà uno sviluppo per appunto le strade che stiamo aprendo. È una società che vuole nel Medio Oriente aprirsi a questo mercato. Vorrei nominare un'altra società dell'amico Roberto Cimolai, con la Cimolai Technology, che in Qatar è già presente e ha fatto un impianto che il record, e questo è dimostrazione della capacità industriale, del know-how italiano. Quando vuole imprimere la propria capacità, è riuscita a montare un travel lift che è praticamente un carro ponte, detto in parole povere, che trasporta oltre 1100 tonnellate appunto di portata, e questo serve per il varo delle imbarcazioni da diporto e per i rimorchiatori. Ecco, lei ha citato molte società, mi sembra che siano tutte più o meno del nord-est, c'è un'affinità elettiva tra il nord-est e il Medio Oriente? Guardi, il concetto, quando siamo stati giù in Qatar abbiamo sentito la necessità di fare il sistema, che proprio l'Italia mancava, manca in questo, ed è proprio i contatti tra le persone e le industrie, in particolare nel nord-est, visto che siamo da questa zona, è la capacità di intrecciare gli interessi e di riuscire a aprire delle strade senza gelosie e senza soprattutto alzarsi a difesa del proprio giardinetto, ma aprirlo per riuscire a coinvolgere più aziende possibili in questo sviluppo del Qatar, che si sta sviluppando in maniera impressionante. Voglio far notare una cosa del Qatar che è molto importante: è la lungimiranza degli investimenti che stanno facendo, e ritorno ancora al professor Rispo e in particolare allo studio per esempio delle energie alternative, che stanno puntando, naturalmente loro partono dal concetto che la loro maggiore energia futura non sarà più il petrolio negli anni, ma sarà il sole, e quindi stanno studiando dei pannelli solari particolari e tutta una ricerca improntata molto in questo campo. Naturalmente la ricerca non è solo energia, la ricerca si suddivide anche in vari campi perché sono collegati con le maggiori università al mondo. Grazie mille, ecco. Grazie dottor Zugno, grazie di questa analisi e anche di queste prospettive, diciamo, costruttive, nel senso di fare sistema, di possibilità per le imprese italiane, non solo su singoli fronti, sul fronte energetico, ma anche appunto con prospettive più ampie. Antonio da Roma, buongiorno. Buongiorno, volevo essere testimone e confermare quanto i suoi ospiti hanno detto finora. Ho avuto un'esperienza in Qatar con una società svedese, conoscendo conoscendo l'arabo, l'inglese e l'italiano naturalmente, apprezzano molto la manodopera italiana, i tecnici specializzati italiani. Rispetto agli stessi svedesi, loro preferivano avere una confidenza con noi per il nostro modo di rapportarci col popolo del Qatar. La ringrazio. È stata una bella esperienza e apprezzo la descrizione che hanno fatto i suoi ospiti, perché è proprio vero, c'è tanta volontà e ricercano la manodopera specializzata italiana, hanno un buon rapporto con noi. Grazie mille, grazie di questa testimonianza diretta, ci avviamo alla conclusione, vorrei un'ultima considerazione da parte di Alberto Cavicchiolo, appunto abbiamo parlato di queste prospettive, vista da un punto di vista complessivo, diciamo che l'Italia ha anche delle grandi opportunità che dovrebbe sfruttare, che sta sfruttando, ma che potrebbe sfruttare meglio, Cavicchiolo. Sicuramente Inghilterra soprattutto, perché dai tempi di Lawrence d'Arabia è stata, diciamo, leader nella regione, e la Francia sono due grandi riferimenti degli investimenti qatarini in Europa. Però noi potremmo veramente rilanciare alla grande, anche tenuto conto che, come diceva l'ambasciatore Ferrari, la chiffre d'affaires del bilancio diciamo commerciale è sui 2 miliardi e mezzo, e questo comunque da parte nostra esigerebbe un rilancio anche per intervenire in vari settori e per avere il ruolo che in fondo meritiamo, direi di più che forse i qatarini si aspettano. Ecco, il Qatar è indubbiamente una realtà, abbiamo voluto parlare di questa realtà oggi non tanto per fare uno spot per il Qatar, non abbiamo nessun interesse diretto, quanto per dimostrare come in fondo le vie dell'internazionalizzazione siano aperte. L'Italia ha delle grandi opportunità sotto questo profilo, ha un grande dato positivo che è il marchio Made in Italy, che è il terzo marchio più conosciuto al mondo, e ha anche una grande capacità, come hanno dimostrato anche le esperienze dirette, alcune sollecitate da noi, alcune che sono arrivate spontaneamente al nostro programma, di andare in questi paesi, di capire la loro realtà e, senza perdere la nostra identità, di far sì che possiamo realizzare qualcosa di costruttivo insieme. Io ringrazio l'ambasciatore d'Italia in Qatar Andrea Ferrari, Franco Alzetta, Enzo Zugno, Massimo D'Aiuto, che ci hanno aiutato in questo programma. Ringrazio Alberto Cavicchiolo, che è stato qui con me in studio. Ringrazio Franco Piantanida in regia e Luca Cremonese in redazione. Molte domande sul Qatar riguardavano l'energia, ne parleremo lunedì, parleremo della politica energetica italiana, soprattutto verso le imprese e le famiglie. Grazie, buon weekend a tutti. Radio 24. La passione si sente.